Ora siamo in onda, per cui se volete parlare al microfono vi sentite, vi sentiranno. Se c'è un sottofondo musicale potentissimo che abbassiamo, la colonna sonora di Tenet, fantastica. Presentatevi, carissime, presentatevi. Ciao, sono Michela. Ciao, sono Stefani. Ok, noi siamo oggi qui per la il quinto appuntamento di Attualizzare l'Antifascismo, una serie di puntate, siamo alla quinta di otto. È tutto un po' gestito in maniera un attimino precaria perché purtroppo il capitale non ci lascia tempo di vita, per cui siamo a lavorare fino a 5 minuti prima di iniziare la trasmissione, ma va bene anche così. Io mi devo ricordare di parlare in questo senso al microfono, se no non si sente una mazza. Prego, presentatevi mentre io cerco una canzoncina più divertente e poi via con le chiamate e tutto il resto. Michela, spiegaci perché siamo qua oggi, se hai voglia. Certo, allora siamo qui come diceva Gulli per la quinta puntata dove parleremo di antifascismo e antirazzismo. Che cosa ci diremo oggi? Tutti noi sappiamo così a grandi linee dalla scuola che il fascismo era fondamentalmente un regime razzista. Ma ad oggi qual è la questione? Che secondo almeno quello che penso io, poi non so se vai, di quello che pensi tu, non c'è nessun problema. Il razzismo è istituzionale e strutturale, dentro allo Stato e dentro tutta la burocrazia, le leggi sull'immigrazione e sul diritto alla cittadinanza, dove si criminalizza ancora le persone che arrivano per cercare un diritto di vita migliore o diciamo anche la felicità. Ma possiamo dirlo, talvolta c'è anche quella nella vita, noi poca, pochissima, però in generale c'è. E niente, perciò faremo un po' di collegamenti tra il fascismo che è stato ieri, che c'è oggi e il razzismo. Yeah. Prego, è Stefani, giuso? Sì, è Stefani. Il mio nome appunto è straniero, come avete notato. Sono in Italia da 17 anni. Sono ecuadoregna, ma ho un accento milanese, mi dico. Fega, c'è l'accento milanese, su chi parla ora. Esatto. Grandissimo. E quindi oggi sarò qui a raccontare un po' la mia storia, quello che penso riguardo l'Italia, come mi ha trattata. Esatto, mi sa che non ci faremo una gran figura in quanto cittadini italiani, ma qui potremmo dire che il popolo non è il suo governo, per cui non era quello tutto colpa nostra. Vero. Va bene, sentite, ci ascoltiamo due minuti proprio di Welcome to Tijuana, che è un pezzo della Madonna, e poi partiamo, antifascismo e antirazzismo, quinto appuntamento verso l'anniversario di Dax. Michela, un saluto prima della canzone? Un saluto a tutti prima della canzone. Bravo, e a tutte, brava, e a tutte. Ale, a tra pochissimo. Tutti Juana, tequila, sexo, marijuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. Bienvenida a Tijuana. Welcome to Tijuana. Bienvenida, tequila, sexo, marijuana. De noche a la mañana. Welcome to Tijuana. Bienvenida a Tijuana. Aduana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. No será difícil dar con su domicilio. ¿Alguna novedad? Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Eccoci qua, torniamo in onda. In realtà abbiamo saltato il pezzo bello di Welcome to Tijuana. Questo era l'outro del brano, ma va bene anche così. Chiamiamo il nostro antropologo di riferimento, nonché l'unico antropologo che abbiamo per ora nel nostro entourage, il caro Andrea Staid, che poverino doveva bisogno di un stare nell'orario. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti, buonasera. Come va? Come andiamo sui Monti Liguri? Sui Monti molto bene, però è iniziata il secondo semestre di didattica a distanza, quindi oggi sono reduce in realtà da una giornata fin troppo convenzionale da cittadino. Ai ai ai, ma tanto qualcuno ci ha detto che eri passato per Milano un po' di tempo fa con tuo sommo dispiacere. È vero, sono passato da Milano, sì. Beh, sei scappato proprio di corsa subitissimo. Sono scappato di corsa, a parte, vabbè, perché non sarei potuto rimanere a Milano, per il permesso di lavoro era di 2 giorni, però comunque sì, sono scappato molto volentieri da City, anche perché qua c'è una primavera praticamente in questi giorni, quindi è spettacolare. Sì, anche a Milano, forse tra pochino arrivano anche le zanzare, il mio grande timore. Sì, sono d'accordo. Va bene, comunque potremmo continuare a parlare un po' così dei fatti nostri ancora per un po', ma in realtà c'è della gente seria con me al microfono. Prego. Ciao Andrea. Ciao. Ciao, ciao. Abbiamo con noi Michela, che è una valentissima compagna di Zam, ed è Stefani, che è, come magari non si può sentire dall'accento, perché è molto milanese l'accento. Esatto, sono equadoregna. Equadoregna. Va bene, noi ti abbiamo informato più o meno, sempre un po' con il nostro stile, di qual era l'argomento della puntata. Tu più o meno ci sei buttato a capofitto, quindi se ti diciamo che antifascismo è antirazzismo nel 2021, tu cosa potresti pensare, cosa vorresti dirci? Beh, a parte dire che sono d'accordo, nel senso che sicuramente non si può essere antifascisti e essere razzisti, ma questo non solo nel 2021, cioè questa è una cosa che deve caratterizzare proprio l'antifascismo in quanto critica all'autoritarismo e al dogmatismo, al verticismo, insomma tutti questi ismi del cavolo. Però secondo me il passo in più del 2021 invece è proprio cambiare il modo di ragionare la questione dell'antirazzismo e quindi dell'antifascismo, nel senso che per fortuna già da parecchi anni ormai, anche se non è completato questo percorso, stanno cambiando un po' le cose nel modo di vedere le lotte antirazziste, nel senso che io ho iniziato a muovermi in questo mondo dell'antirazzismo militante a fine anni 90, quando giustamente chiedevamo e urlavamo la chiusura dei CPD, quelli che si chiamavano CPT, nuovi lager, quelli che, come voi sapete benissimo, ma che magari qualcuno che ci ascolta non si ricorda, sono stati inventati proprio dalla legge turco-napolitano, magari mi sbaglio ma sono quasi sicuro, proprio sulla fine degli anni 90, per queste galere etniche, no? Dice Curcio, oppure nuovi lager, dice Alessandro Dal Lago. E in queste campagne di lotta però l'antirazzismo era molto coloniale, in realtà c'era sempre uno sguardo, magari molto spesso anche non voluto, però che era noi italiani, noi militanti del centro sociale X o dell'associazione Y facciamo le cose per i migranti. Per fortuna c'è stata una grande critica a questo modo di vedere le cose, noi non dobbiamo fare niente per nessuno, noi dobbiamo fare le cose assieme. E quindi il nuovo antirazzismo, quello secondo me più interessante, e quindi anche l'antifascismo, perché sono due parole inseparabili, come anche antisessismo chiaramente, e anticapitalismo, però tutti questi anti, e poi mi piace anche pensare di non essere solo anti, ma essere per qualcosa, no? Quindi una società di liberi uguali che sappia autogestire gran parte di quello che è il sistema produttivo, quelle che sono le relazioni, no? Però insomma, comunque, dal mio punto di vista l'antifascismo antirazzista è obbligatorio, ma oltre a essere obbligatorio come coesione, ci deve essere proprio questo modo di vedere l'antirazzismo non come un qualcosa che gli italiani, società dell'accoglienza, fa per qualcun altro, ma proprio come un coacervo di transculture che si incontrano e lottano assieme, riportando al centro della discussione il fatto che il problema non è da dove vieni, ma chi sei, e quindi quella famosa battaglia, guerra di classe, che è quella degli sfruttati contro gli sfruttatori. E questa cosa qua, diciamo che sembra essere sempre più chiara, poi nei fatti molto spesso ancora si ricade in quello che appunto è una visione un po' coloniale. Proprio in questi giorni, cioè proprio oggi, ho pubblicato un'intervista che ho fatto a Adil Mauro, che è un giornalista bravissimo, e che dove ragioniamo proprio sul decolonizzare la cultura progressista, e quindi cercare proprio di svuotare dallo sguardo egemonico e etnocentrico quelli che sono i movimenti di lotta per l'emancipazione. E quindi per questo io credo che è importante contestualizzare bene che cosa significa essere antirazzisti e soprattutto cosa significa fare delle campagne di lotta che stiano attenti ai prefissi. Non si devono fare le cose per, ma le cose con, appunto. Mm-hmm. E bisogna avere ben chiaro chi sono invece i nostri nemici. Sì, questa cosa c'è, effettivamente basta semplicemente cambiare il suffisso. Io di grammatica non ne so niente, quindi ripeto quello che ha detto Andrea. Da per, ma emettere semplicemente il con, semplicemente. Ma infatti la domanda che ogni tanto mi viene quando cerco nel mio piccolo di fare qualcosa di realmente antirazzista è: come fare realmente a interagire con una persona che viene da un altro continente, un'altra storia, un'altra vita, per fare la stessa battaglia che potrei fare con una persona che conosco, che è italiana, che è nata qui con me, che ha i miei stessi riferimenti culturali? Esempio banale: come faccio a superare il gradino che inevitabilmente c'è di distanza tra me e una persona del Gambia quando dobbiamo parlare di diritti del lavoro, di lottare in quanto entrambi operai, entrambi sfruttati, entrambi poveri? Cioè, io lo percepisco che c'è qualcosa di diverso. Purtroppo lo dico, magari risulterò anche razzista, ma fa niente, io purtroppo so, ho i miei limiti. C'è molto di accettazione della condizione. Nelle persone che io ho conosciuto, che arrivano da vari paesi africani, c'è molta rassegnazione e fatalismo, che non vuol dire tristezza, anzi, è questo modo di intendere la vita, molto più sereno, molto più... Non c'è nessun problema, è una questione che va così perché il mondo va così, per cui si accettano condizioni di lavoro pessime, paghe basse, problemi vari, eccetera. Cioè io noto nelle persone che, ripeto, che io ho conosciuto, che arrivavano da contesti diversi da quello italiano, e che veniamo tendenzialmente, sto parlando in questo caso delle persone che ho conosciuto che arrivavano dall'Africa, come se ci fosse il fatalismo per cui non si può cambiare, e non c'era la rabbia, non c'era quella componente di io ho una dignità, valgo, e quindi mi si deve dare rispetto. Questa cosa io non riesco a capire come superarla, e magari sono un po' coloniale, probabilmente. No, guarda, secondo me quello che dici però c'è una risposta, che sono le asimmetrie del mondo contemporaneo e dell'economia. Cioè chiaramente per quanto anche tu sei un poveraccio come loro sono molto più estremamente ricattabili di te dal punto di vista salariale, nel senso che per quanto io so bene che tu non sei un magnate, però comunque hai un welfare familiare minimo, hai una reti di amicizie che ti permettono anche di metterti molto più a rischio sul lato della rivendicazione, e in più comunque tu sei un militante, sei un comunista, e quindi hai ben chiaro quello che vuoi nella vita. Quindi come fare? Io non ho nessuna ricetta pronta, però io penso che intanto l'ascolto è importante, quindi capire anche le istanze dell'altro, e quindi capire, per esempio, e quindi qui faccio un'altra critica. Prima ho fatto una critica evidente a tutti quei movimenti che negli anni 90, e lo dico senza problemi, per me erano il problema che avevamo grossissimo di dialogo con quelle che si chiamavano le tute bianche, cioè che comunque facevano le lotte per i migranti, che soggettivizzavano in modo molto preciso la lotta migrante perché era la cosa che stavano spingendo, e più volte mi sono ritrovato alle manifestazioni dove c'era appunto il capoccia di turno che diceva mettiamo i migranti davanti che devono essere fotografati, gli scontri invece li fanno i compagni. Ecco, questa cosa qua è proprio il colonialismo nella lotta, no? Ed è osceno. Però dall'altro lato c'era un'altra problematica, giusto per tirare critiche a destra e a manca e farmi vedere da tutti, anche nel mio mondo, che era quello: bruciamo le frontiere, bruciamo i documenti, i permessi di soggiorno sono inutili, spacchiamo tutto. In realtà molto spesso ci si ritrovava sempre a ragionare soltanto fra militanti italiani, e che avevano un welfare familiare di un certo tipo, cioè nel senso comunque avevano la possibilità di sapere di avere un paracadute, perché la maggior parte delle persone che facevano parte di quel mondo migrante avevano le idee ben chiare su che cosa volevano, e soprattutto non potevano mettere a rischio completamente a repentaglio la loro vita, la vita dei loro figli o dei loro cari. E quindi io come ho fatto a capire le istanze dell'altro? Dialogando. Cioè io ho cambiato idea su certe cose, per esempio sull'importanza del permesso di soggiorno, che è chiaro che è una tappa, Io nel, se tu mi parlavi, se voi mi parlavate negli anni, fino agli anni 90, vi avete detto il promesso di soggiorno non serve a niente, è solo carta, la carta brucerà. Sì, tutte cazzate. Intanto io le carte però nel mio portafoglio, la carta d'identità, poi quando volevo andare a prendere un aereo, andarmene a farmi la vacanza in Spagna, ci andavo a farmi l'interrail, o se mi fermavano gli sbirri, comunque io gli davo il documento e poi insomma, a seconda di quello che poteva succedere, però me ne tornavo a casa mia. Ecco, quindi la carta in realtà molti non ce l'hanno, e quindi un percorso importante nel processo di liberazione antirazzista era quello di far avere il permesso di soggiorno a tutti, che chiaramente non si è ottenuto, come ben sappiamo. Quindi secondo me bisogna ben ponderare, quando si fanno certi discorsi, quali sono le situazioni appunto della persona che abbiamo di fianco. Questo ciò non toglie che è importante insistere, e qui per rispondere a Gulli, col fatto che bisogna propagandare un'idea di lotta di classe, un'idea di cambiamento radicale, un'idea di critica forte a quello che è il blocco padronale, no? E chiaramente non è una cosa semplice, e ti ripeto, e ripeto a tutti, io non ho assolutamente nessuna cavola di ricetta. Quello che credo è che se tu ti ritrovi con degli operai che ti dicono cose di quel tipo, devi con pazienza cercare di capire il perché. Fargli capire il perché secondo te è giusto invece lottare per determinate istanze. Oltretutto non credo che sia una questione soltanto africana, ma sia proprio una questione di povertà, classe e possibilità. E soprattutto poi l'altra cosa è che, se ci pensi, quanti sono gli italiani che accettano condizioni devastanti e che non si pongono in critica, no? Io parlo del mio piccolo mondo, che è un mondo minuscolo e particolarmente inutile molto spesso, che è quello della cultura. La maggior parte della gente anche a 40 anni ancora scrive gratis, non rivendica salari, non faccio nomi precisi, ma a me è capitato più volte di lavorare per dell'università dove io rivendicavo il salario, che mi sembra normale, e mi dicevano: ma sai quanta gente farebbe al tuo posto le lezioni gratis per il curriculum? E io dicevo: vabbè, chiamate loro. Vaffanculo, no? E quindi è chiaro che è molto più peso scaricare le cassette della frutta o fare il muratore, io non mi metto sullo stesso livello, però comunque anche nel mio mondo è allucinante il grado di sfruttamento e autosfruttamento, perché poi torniamo, e poi sto zitto, Gulli, scusa se ho fatto sta risposta, però sulla questione della servitù volontaria, che già avevamo citato l'anno scorso, che questo testo molto carino di Etienne de la Hoitier, che è questo appunto libro dove si parla della schiavitù volontaria, cioè del fatto che comunque siamo in tanti, non tutti, ma siamo in tanti ad accettare di essere schiavi. Lo sono i tuoi amici, colleghi gambiani, come lo sono i brianzoli, come lo sono i muratori bergamaschi, peggio, cioè sì. C'è di tutto e di più. Credo che non sia soltanto una questione di provenienza, ma proprio di, da una parte, di ricattabilità, bisogno di soldi, bisogno di mangiare, perché se non prendi quei soldi non mangi, e dall'altra però anche invece molto spesso, senza voler appunto dire che è tutto uguale, persone che non la pensano come noi e che sono molto attratti dalle luci del neon del capitalismo. Prego, Michi. Sì, un punto che mi interessava affrontare, di cui ha parlato Andrea, è che se non hai un permesso di soggiorno non esisti. Dunque, quello che tu dici, non parlano, non rivendicano, è perché materialmente per lo Stato italiano tu non hai una carta, non hai dignità di essere una persona, sei nessuno, sei un invisibile. Dunque, perché parlare se io per il mondo non esisto? Cioè, questo è un processo molto complicato da affrontare e in cui noi non riusciamo a metterci proprio nell'ottica. Due, un'altra riflessione che mi piaceva fare con voi, che i migranti, cioè, ognuno ha le proprie idee, anche politiche. Conosco migranti profondamente razzisti rispetto agli abitanti del paese a fianco, tipo Stefani, dimmi. Tipo lì. Esatto, ma io conosco gente che ha preso la cittadinanza da 2 anni e ha votato Salvini l'anno dopo. E ho iniziato a condividere queste robe e io dicevo: ma che cazzo stai facendo? Ma ti svegli? Perché poi purtroppo c'è anche questa cosa di dire: vabbè, io adesso sono qui tranquillo, ho la cittadinanza, io adesso posso fare razzismo sugli altri, perché tanto io sono sudamericano, a me poco razzismo, la fanno più sul nero, lo faccio anch'io, che cazzo me ne frega, cioè, mica sono sullo stesso piano dell'africano, io sudamericano, non lo penso io. No, ma chiaro. Era per dire, io le ho sentite queste cose. E un'altra cosa che volevo sottolineare è che quando uno fa un viaggio, non io, ma i miei genitori, già tanto che ringraziano che hanno trovato lavoro, cioè non vieni con la cosa di dire, ah, vengo qua a rompere i coglioni, tu dici, sono andata via dal mio paese, e noi immigranti, ma questo anch'io, vivremo per sempre con questo accollo di dire, ah, cazzo, ci hanno dato un futuro che noi non avremmo avuto, cioè io questo accollo lo sento ancora, nonostante sia incazzata, ogni tanto dico, vabbè, però se fossi stata nel mio paese, che cazzo mi lamento, poi mi incazzo, cazzo, dico, che cazzo stai dicendo, ma è un accollo psicologico che ci portiamo tutti quelli che veniamo qua, e non è quindi facile lottare, perché dici, allora te ne vai, quella roba che quando da piccola ti dicevano, non mi piace la pasta, e la maestra ti diceva, allora te ne vai nel tuo paese, ma ti rimane per tutta la vita. Ma degli insegnanti che hanno capito pienamente il loro ruolo educativo. Va bene, allora, noi sappiamo che Andrea ha degli impegni, purtroppo, per cui dobbiamo salutarlo. Impegni importantissimi, devo andare a prendere la cassetta della verdura. Se no non mangi, quindi voglio dire, no, dai. Però anche questo è importante. Gullo, se posso vorrei sottolineare solo una cosa, c'è tempo? Vai, tranquillo, vai tutto il tempo che vuoi tu, senza problemi. No, perché queste cose che sono state dette sono molto interessanti, cioè non quelle che ho detto io, quelle che avete detto voi, insomma, cioè sono state delle sottolineature importanti, perché anche qui i migranti è una parola che non ha senso, cioè ci sono soggetti, ci sono uomini e donne con immaginari, professioni, idee, quindi non è che possiamo semplificare dicendo, cioè, o stupirci perché ci sono dei migranti che sono di destra, o dei migranti che sono anticomunisti, o dei migranti che appunto dicono che sono razzisti, cioè questa qua è una cosa normale, è normale perché come sono umani al di là di quelle che sono le appartenenze etniche, non è positivo, però le alleanze si devono fare non su base etnica, ma su base appunto di affinità, e nel nostro caso penso che possiamo parlare di affinità politica, affinità di idee, affinità sul cambiamento possibile, a me non interessa se sei iraniano o sudafricano o della Norvegia, cioè a me quello che interessa è quello che pensi e come ti poni per cambiare l'esistente, no? E quindi anche qui io mi ricordo che una piccola cosa che avevo scritto che aveva creato un po' di dibattito è che in un mio libro avevo fatto tutto un capitolo sulle dinamiche di potere interne ai migranti, nel senso che era un libro totalmente ovviamente antirazzista, contro le frontiere, bla bla bla, però a un certo punto, visto che avevo fatto ricerca e avevo raccolto tante informazioni, non potevo nascondere un aspetto, che era l'aspetto dell'autosfruttamento e delle dinamiche dominanti all'interno proprio delle fasce migranti, per semplificare le chiamerò così, che quindi sono quelle persone che si occupano di trovare lavoratori neoschiavi per datori di lavoro italiani. Guarda caso, poi molto spesso quelle persone sono della stessa comunità di appartenenza del neoschiavo. Quindi, cioè, voglio dire, le dinamiche di sfruttamento e potere sono, purtroppo non hanno confini. Basti pensare agli italiani che sono immigrati all'estero, c'erano gli immigrati italiani che erano l'elite dei commercianti, e c'erano gli operai che facevano le lotte rivoluzionarie, i giornali e i sindacati. Quindi voglio dire, secondo me la cosa interessante è capire come parlare a tutti e a tutte, senza fare la differenza appunto del paese di provenienza, ma mi sembra un pochino l'ABC, insomma, nel 2021 questo discorso. Che io ero stupido e non seguivo la maestra, per cui mi devo ripartire sempre dall'ABC. Va bene, grazie Andrea, ci hai illuminato come sempre. Se vuoi puoi chiederci una traccia, vediamo se ce l'abbiamo, che parli di questi temi, se no io metto Immigrant Song delle Zeppelin, che è una canzone zarrissima, bellissima, rock. Va bene, fai quello che vuoi. Ti va bene, Andrea? Cosa ne pensi? Va bene, sei proprio vintage, Gulli. Esatto, un giorno anche noi prenderemo d'assalto il potere con questa musica in sottofondo. Adesso ditemi voi se non vi carica di brutto. Va bene. Grazie mille, Andrea, torneremo a darti fastidio in altri momenti, tipo forse settimana prossima, se non sbaglio, quando si parlerà della notte in cui uccisero Dax. Ci risentiremo. Buono. Un abbraccio. Ciao, Ne. Ciao. Va bene, la musica l'ho caricata. Devo fare quel solito gesto che di solito mi dimentico di fare. Andrea ha messo giù molto bene. Basta, sta già dissolvendo la canzone. Alzo a manetta e spaccate questa canzone. Cioè, scusate, mi sembrava che fosse un bel pezzo da mettere. Comunque. Va bene, allora adesso, momento panico regia, dovrebbero essere in collegamento con noi un po' di compagni, compagne da casa loro, perché ultimamente purtroppo bisogna utilizzare anche certi mezzi, quindi facciamo la fatidica domanda, e qui lo spirito di Lorenzo spero che mi assista. Ci sentite? Provate a dire qualcosa? Sì, vi sentiamo. E noi sentiamo voi. Fantastico, meraviglioso. Vi do un consiglio, ma vedo che siete persone scaltre, intelligenti, l'avete già fatto. Se stavate ascoltando giustamente questa trasmissione, perché dovevate intervenire da lì a poco, eliminate qualsiasi cosa stia proponendo la nostra radio, sennò si creano dei loop e finiamo in un altro pianeta, fischi e robe così. Basta, mi taccio. Prego, Michela. Una roba importante che volevo dire, mi sono dimenticata. Sempre nel microfono, però. Quella dovevo dire all'inizio, che mi faceva piacere ricordare oggi e dedicare secondo me questa puntata a Falaye Dabo, originario del Mali, morto ieri suicida nelle campagne vicino a casa mia a Foggia. Perciò secondo me non è quasi passato da nessuna parte, mi faceva piacere ricordarlo in radio. Ce lo ricorderemo. Proviamo a presentare, anzi lasciamo che si presentino le persone collegate con noi qui stasera. Prego ragazzi, una alla volta, non so come volete voi, anche tutti insieme, non si capisce niente, vai. Piacere, io mi chiamo Dina Nafi. Dici qualcosa in più, Dina? Hai ragione, ho 25 anni, sono egiziana, nata a Torino, per un periodo ho vissuto a Milano, mi fa veramente piacere stare qua con voi a parlare di questa tematica che mi tocca a livello anche personale. Dai, vado io, ciao a tutti e a tutte. Sono Cristina e sono stata chiamata da Michela, che ringrazio perché facciamo parte entrambe del Tutto Cambia. In realtà io sono siciliana, se dobbiamo essere specifici, anzi in questo momento sono proprio in Sicilia e nella vita faccio la sociologa e per tante ragioni mi sono anche occupata di questi temi, ma penso che sia inevitabile, ahimè, scontrarsi con temi legati al razzismo e per fortuna anche all'antirazzismo. Ciao, io sono Bettina, sono probabilmente un po' più piccola, ho 14 anni, invece io sono di Milano, anche di origini, per quanto ne so, almeno i miei genitori hanno tutte origini italiane, e nulla, mi fa molto piacere stare qui e ascoltare quello che direte e quello che avete detto. No, mi spiace Bettina, sul contratto c'era scritto che tu intervenivi perché fai parte della rete studenti Milano, tutto questo ciclo di 8 puntate è stato costruito apposta insieme a voi, per cui qualcuno ti ha costretto a collegarti stasera, perché tu dovrai parlare, lo sai, vero? Sì, lo so, sono stata costretta in realtà, io non volevo partecipare. Perfetto, tutto bene, tutto giusto, fantastico, la coercizione funziona ancora. Va bene, allora da questo punto... Manca Ammar? Ammar dov'è? Ciao, ciao a tutti. Parte. Eccoci, mi chiamo Ammar, sono egiziano e sono a Milano in Italia da 6 anni, ho 32 anni e ho tanto da raccontare. Beh ragazzi, io a questo punto faccio una cosa, dato che ho già capito che sono tutte persone molto più validi di me, io mi taccio, alzo i microfoni e basta, fate tutto voi, come sono contento, vi giro anche il microfono se volete. No, vabbè, ci basta questo. Vai, prego, fate voi, dite voi, fate tutto quello che volete. Vai, Miki. No, vabbè, mi sono troppo responsabile di questa roba e come al solito farò casini. Però vabbè, sono felice che non sono sola, che sono tutte le persone a cui voglio bene qui con me, che mi supportano. E una roba che mi premeva dirgli prima di lasciare la parola a tutti, una roba che aveva accennato anche Andrea prima. E Gulli, tu hai fatto una domanda per cui hai detto io non so cosa fare. Ti volevo leggere un pezzo, ma sono due righe proprio, di un libro bellissimo che ho comprato venerdì, stalkerizzando anche l'amica qui dietro. Perché voi non lo sapete, adesso lo facciamo vedere chi è collegamento Zoom, noi abbiamo anche un pubblico presente in sala, vedete, è Chiara, è una delle altre redattrici della radio, una delle più prolifiche, fa un sacco di cose bellissime in radio. Prolifica. E invece adesso torniamo a inquadrare il soffitto della radio per chi ci sta seguendo su Zoom. E quindi è qui con noi ad ascoltarci, per cui niente. Michela l'ha stalkerizzata, bravo. L'ho stalkerizzata, sì, mentre volevo acquistare questo libro che non trovavo. Poi l'ho trovato proprio per la puntata e ho trovato una roba che ci può servire. Il libro è Solidarietà Coatta, uscito quest'anno per le Edizioni Allegre. Lo scrittore è Hunter, un personaggio veramente molto particolare. che ha fatto un percorso di vita dalle carceri minorili di Nottingham ai movimenti di estrema sinistra, e riflettendo molto su se stesso. Il suo libro è un po' un memoriale. Cosa dice in merito al razzismo e l'antirazzismo e alla violenza fascista? Una parte del nostro attivismo va dedicata ad educare noi stessi, riflettendo sulle strutture del suprematismo bianco in cui viviamo e da cui ne traiamo beneficio, ovviamente per smantellarle. Se non comprendiamo i nostri ruoli nelle strutture sociali di oppressione, aggiungo io oppressione di matrice fascista, siamo mal equipaggiati per sfidare in maniera energica e non riusciremo a smetterle di riprodurle. Bisogna evitare atteggiamenti di paternalismo e pietà, quello che diceva prima Andrea. In questo modo non si interagisce alla pari con i migranti, li trattiamo come persone che dobbiamo aiutare. Noi abbiamo la responsabilità di trovare il modo di contribuire a smantellare le strutture e il sistema di oppressione, piuttosto che andare in giro come se fossimo l'incarnazione stessa di quella violenza, aggiungo ancora fascista. Dunque, se ti può aiutare ad educarci un pochino, però... sì, un pochino sì, perché sono stupido e ci vuole molto per farmi entrare un concetto in testa, però questo ce la possiamo fare. Mi piaceva fare questa riflessione per dire che io sono bianca, sono italiana, non mi sento in diritto di parlare e sono qui solo per ascoltare i miei amici. Una piccola premessa, ripartendo dal tema della puntata, che è appunto antifascismo e antirazzismo, è proprio raccontarvi su quando sono state, ma proprio due cenni storici su cui va bene, girate la ruota, qualcuno vuole dare una vocale a Michela, vocale. Per cortesia. Brava, prendiamo la su quando le leggi razziali furono. Sempre il microfono alzato, si sente male? Bravo. Io riprendo Michela, così che la zoomata può vedere che bello. Che bella, prego. Le leggi italiane entrarono in vigore in Italia. Entrarono in vigore in Italia nel 38, ma l'anno prima, nel 37, dobbiamo ricordare che furono approvate dei decreti leggi contro il madamato, che a parte tutta la questione sessuale femminista, che non voglio assolutamente affrontare in questo contesto perché abbiamo altre valide compagne prima di me che lo faranno, non ne voglio assolutamente parlare. Fa ridere perché lo stato fascista, il ridere è vero, Stefania ha scosso la testa. Per lo stato fascista tu potevi andare con tutte le donne nere che volevi, perché erano delle belle venere nere. Sto leggendo da una sentenza di un tribunale di Addis Abeba. Però non potevi volerle bene, leggo, cito, volerle bene, farla mangiare a casa tua, dormire con te, perché l'animo dell'italiano si poteva turbare. Dunque, se non è più razzista di questo, non lo so che cosa potrebbe esserlo. L'anno dopo furono approvate le leggi fasciste, soprattutto antisemite, diciamo, non era proprio una... avevano questo sottostrato di antisemitismo molto forte. Ma voglio ricordare che il direttore della difesa della razza, che era l'organo di stampa di questa missione di Mussolini, era Giorgio Almirante, che lo troviamo da tutta dopo la legislazione, dal 48 fino agli anni 80, leader del Movimento Sociale Italiano. Dunque, com'è possibile che il direttore di un giornale che si chiama La Difesa della Razza poi diventa il leader di un partito riconosciuto, votato nel 72, ebbe la più alta percentuale di voti fino agli anni 80? Questa roba fa pensare su come noi non abbiamo mai dimenticato, non abbiamo mai superato, non abbiamo mai riflettuto su quello che è stato il razzismo. Ricordiamo che, tra l'altro, Graziani, che era il viceré di Etiopia, di cui il tribunale di Addis Abeba, di cui sopra, fu presidente dell'MSI negli anni 50. Dunque, chiudiamo il cerchio di questa storia fantastica. Questa cosa è veramente tremenda, tremenda. Sì. Mi ricordo, quando si parla di queste cose, mi ricordo tanto la faccia perplessa della mia prof di storia, che comunque era abbastanza politicamente schierata, che gli ha detto: professoressa, ma com'è possibile che negli anni nel 47, nel 48 ci fosse della gente che aveva la camicia nera, che era fascista, che aveva fatto le cose insieme a Mussolini, che aprisse un partito dichiarato quasi dichiaratamente fascista e nessuno gli fece niente? Proprio la faccia perplessa della professoressa, che era: ragazzi, questa è l'Italia, non c'è una spiegazione, così è andata così e basta. Cioè, spiegazioni ce ne sarebbero un miliardo, però vabbè. Solo per concludere questo pezzettino, fino agli anni 80, inizi 90, l'Italia non ha mai avuto una legge sulla migrazione, perché eravamo quelli noi che ce ne andavamo via, cioè non c'era bisogno. E fondamentalmente, per quanto riguardava tutte le persone che vivevano o stavano in Italia, si usava ancora il testo unico delle leggi sulla sicurezza del 31. Ah, perciò fino a roba democratica, insomma, in cui lo straniero non veniva veniva, diciamo, inserito in questa legislazione in quanto classe pericolosa per la società. Dunque tutte le norme che regolavano gli ingressi o la permanenza sul territorio italiano erano regolate ancora da questo testo unico del 31. Finita la pillola storica, e ora secondo me mettiamo un po' di musica. Vai, va bene, va bene. Dall'altra parte della riunione Zoom siamo ancora vivi? Sì, dai. C'è energia? Ce lo dite? Però purtroppo, ragazzi, siamo in radio, per cui se non parlate purtroppo non vi sente nel cielo. Carichissima, sì, siamo super carichi. Sì, tutto bene. Bomba, fantastico. Va bene, qualcuno ha qualche tipo di idea per che traccia mettere? Io purtroppo ho tante cose intelligenti da pensare, ma non solo queste. Michela, avevi una playlist? Sì, però io tanto non le scaricate le tracce, per cui come vogliamo fare? E allora, aspetta, come si chiama lui? Noi non scarichiamo le tracce comunque. No, esatto, ma chi le scarica le tracce? Figuratevi, noi compriamo tutti i vini originali. C'è qualcosa di Manu Chao, secondo me, qui. Brava. Sicuramente. Ecco, c'era una roba di Manu Chao, perché... Idir e Manu Chao. Va bene, facciamo così, me gusta studi, Manu Chao, via, a caso, e ci sentiamo tra pochissimo. Chiedo scusa, adesso devo fare la solita cosa che non mi riesce mai, così alzo volume e a tra poco. Once de la noche en San Salvador, El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu. Qué corazón, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdu. Que corazón, mi corazón. Doce, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Allora, dato che noi intervistiamo persone vere che hanno impegni veri, c'è cioè chi sta lavorando e nonostante tutto è in collegamento con noi, veramente tantissimo onore e gloria. Prego, ritorniamo subito a bomba e tagliamo un attimino Manu Chao e parliamo subito sì, con Ammar. Prego. Ciao. Ciao a tutti, come avevo detto prima, sono in Italia da 6 anni, a Milano praticamente solo. E vorrei dire solo, ho lasciato il mio paese, assolutamente ci sono i casi che sono peggio di me, ho lasciato il mio paese e al quarto, l'ultimo anno di università, economia e commercio, per scappare tra virgolette e lasciare e non fare il servizio di militare, perché il servizio di militare in Egitto è obbligatorio, come sappiamo tutti, io non lo so se sapete o no. E allora, prima no, Ammar, raccontalo un pochino. Se hai voglia. Ok, praticamente se tu sei iscritto in un'università fino a 28 anni, se non hai finito l'università, loro hanno l'obbligo di prenderti dall'università ad andare a fare servizi militari anche per 2 anni, anche sul deserto, nel deserto, anche con 50 gradi di sole, quindi è un po' faticoso, anzi un po' pericoloso. Ci sono anche persone che sono morti mentre stanno facendo il servizio di militari, sul deserto o nel deserto. E allora, sentendo questa notizia, ho detto no, non conviene, anche se avevo un lavoro in Egitto, un buon lavoro in realtà, della città di Alessandria. Lavoravamo nel settore con mio padre della serratura, compravamo la merce dalla Cina e Turchia, facevamo un lavoro, un bel lavoro, mettiamola così, e ho lasciato il lavoro, la famiglia, tutti gli amici a 26 anni e mezzo, quindi un anno e mezzo prima del servizio dei militari che sarà obbligatorio, e ho scelto assolutamente l'Italia perché da piccolo ho un sogno di venire a vivere in Italia. Diciamolo, perché Amar qualcosa che si trova col calcio, non vi piace, ma per la Juve per la Juve, no vabbè dai, chiudi per la chiudi Juve. No cioè, non si può fare la Juve, ragazzi, ma si può, non posso crederci, ma dai, cioè. Sì, sì, è la verità. E poi vabbè, sono venuto e ho cominciato da zero perché non parlavo, dicevo solo ciao, così. Cominciato a comunque all'inizio, dai, comunque un buon inizio. Cioè. Sì, ho cominciato a studiare la lingua e ho cominciato a cercare un lavoro. E ho cominciato con un lavoro che mi andavo in giro con la pubblicità, volantinaggio, mettere i volantini in pubblicità. Così nelle caselle, e poi ho continuato a studiare la lingua, ringraziando Todo Cambia, associazione famosa Todo Cambia, e poi da quel punto ho cercato altri lavori, ringraziamo assolutamente Dio, anche l'Italia per il momento, che sto bene, sto lavorando. Bene Amar, grazie che ci hai raccontato un pezzettino. Ma scusa Amar, ma tu poi sei riuscito a ricominciare gli studi universitari, hai ripreso gli studi? No, questo è un esempio di razzismo, perché tutto quello che fai all'estero non è riconosciuto dallo Stato italiano, dunque non... Esatto. Ok, quindi tu, cioè, non puoi finire il tuo percorso di studi, dovresti iniziarne uno ex novo qui in Italia. Esatto, devo scrivermi da un'università nuova. Ricominciare da zero. Anche se mancava mezzo anno esattamente per finire l'università in Egitto. Chiamala così. Noi siamo colleghi, ma perché anche io ho fatto economia e commercio, anche se non ho imparato assolutamente una mazza, sono sicuro che tu sei molto più bravo di me. Ma quindi adesso di cosa ti occupi? E adesso sto facendo un lavoro, un negozio piccolino di scarpe, quindi sto vendendo le scarpe a Milano. Ma è tuo? Cioè, nel senso, è una tua attività? No, e sto aspettando la risposta finale della richiesta di asilo politico e anche della sanatoria. Ok, ma tu, cioè, quale sarebbe il tuo progetto qui in Italia? Cioè, tu aprendo un'azienda tua, ti basta essere dipendente, con posto assicurato, cioè come... Cosa vorresti fare? Anche in quale ambito? Cioè, tu lavoravi con le serrature con tuo padre, ti interessa quella roba lì? Mettiamola così, nel commercio. Vorrei continuare nel settore commercio, aprire qualche attività anche piccolina o qualcosa altro, però roba, nel senso roba mia, perché sono abituato allora dal mio padre, sentendo che è una roba nostra, mettiamola così, un'attività privata, però speriamo, se riesco. Barba, se apri un bar ferramenta io potrei diventare tuo cliente spassionatissimo, vado pazzo per i ferramenti, sono bellissimi, vedo un sacco di cose interessanti. Nelle piccole perversioni per il metallo a forma di vite. Grazie Amar, però vi dico, anche con quello che ci ha raccontato Amar abbiamo piano piano fai un pezzettino in più ascoltando, cioè abbiamo scoperto, cioè vabbè, parlando già lo sapevamo, che l'Italia non riconosce nessun titolo in percorsi di studio all'estero, dunque se tu hai un titolo, diciamo, di un paese fuori dall'Unione Europea, devi fartelo convalidare dall'ambasciata, devi fare tutta una serie di scartoffie varie, se riesco, se poi alla fine si riesce a farlo, ma è un percorso comunque lungo e difficile. E anche in quest'anno, dove avevamo bisogno di medici, infermieri, e ci sono tanti medici, infermieri che sono in Italia a fare altro, noi li abbiamo potuti, diciamo, usare, mettiamo questa parola bruttissima, durante l'emergenza Covid, perché non sono riconosciuti i titoli. Dunque, se sei un medico egiziano non puoi lavorare in un ospedale italiano. Ah, ma tranquilla, ha detto che Draghi investirà sull'istruzione, sicuramente cambierà questa cosa. Fischia, si cambierà. Cambierà un sacco. va bene. Grazie Ammar. Grazie Ammar. Grazie a voi. Ciao. Ciao Ammar. È proprio working pride totale, grande. Ammar ci saluta perché deve fare la chiusura al negozio. Madonna raga, siamo veramente working class potente. Grandissimo. Ma comunque io adesso inizio a gettare, scusami l'ultimo secondo, a gettare delle molliche di pane e vediamo, perché c'è comunque la radio di Zam è qui, voi adesso avete capito come funziona, Michela fa parte del nostro collettivo, Stefania è venuta qui, quindi cioè, sa anche la via, il modo di arrivare. Stefania cioè, è di grato soglio. Stefania è di grato soglio, allora. Cioè, in futuro potete anche venire in radio a fare delle cose, a parlare, ma anche, cioè nel senso, a parlare in arabo, a parlarci in arabo, a fare programmi che parlano di culture diverse dalla nostra, quello che più vi piace. Magari ci mettiamo d'accordo sulla parte commerciale, che ecco, quella magari è un pochino, in un centro sociale è un po' un argomento scivoloso. Però dai, cioè nel senso. Yes. Esatto, Stefania la vedo molto carica, infatti adesso vediamo quando ci tira fuori lei. Va bene, salutiamo Ammar, tante ciao, bellissime cose, quando vuoi passa anche di qua così ci salutiamo di persona. Buon lavoro. Grazie. Ciao Ammar. Grazie. Ciao. Ciao. Decidete voi cosa fare andando sì, avanti, io perché farei parlare sicuramente loro, giusto un pezzettino per collegare le varie persone e non sembrare, mm-hmm, non sembrare pazzi o pazze. Ammar ci ha detto che la sua esperienza, che è arrivata da 5 anni in Italia, sta ancora aspettando i documenti, ha fatto una fatica enorme per farsi riconoscere l'asilo politico. Ed è stato veramente un parto, perché in questo momento la legislazione italiana ha degli accordi con l'Egitto per cui l'asilo politico non viene quasi mai riconosciuto e in realtà non c'è nessun altro modo per diventare una persona, io lo uso sempre tra virgolette, legale, perché non esistono persone legali e persone non legali o persone da sanare o persone sanate. Dunque in questo momento entrare in Italia perché non sono malate ovviamente. Entrare in Italia in maniera regolare praticamente non esiste, questo ringraziando sempre tutta una serie di leggi che non sto qui ad elencare, dal 31 sulla legge che vi dicevo prima non abbiamo fatto passi avanti, diciamo in momento la legge è ancora in vigore, il testo unico sull'immigrazione emanato nel 2002 dall'accoppiata vincente Bossi-Fini. Olè. Fini, ricordiamolo, che era il successore di Almirante, di cui sopra. Ma pensa. il cerchio torna. Perciò vari aggiustamenti vari, ma comunque il testo unico è rimasto fondamentalmente quello. Perciò darei la parola a Stefani, che ci racconta lei come è entrata in Italia e si è ritrovata a grato soglio. Allora, io sono entrata in Italia esattamente 17, quasi 18 anni fa. Quindi sono venuta qua che avevo quasi 8 anni e sono venuta qua perché i miei genitori cercavano proprio un futuro migliore. Mi hanno portato dicendo mi sarebbero rimasti solo 1-2 anni, sono già 20 quasi. Comunque un futuro migliore a grato soglio, ora non vorrei essere cattivo nei confronti di grato soglio, però... Non sono arrivata a Grattosoglio, anzi Grattosoglio è stata la fine, l'inizio okay. È stato Viale Cermenate per la realtà, quindi va bene. Vabbè dai, esatto. Da un po' meglio. E devo dire come mi ha trattato l'Italia. L'Italia mi ha trattato così. E la cosa che più mi fa arrabbiare, tra tutte le cose che ho contro tutta questa storia dei documenti, è la storia che a me pare ingiusto, che io ho fatto qui le elementari, ho fatto le medie, ho finito le scuole superiori, attualmente ho finito anche la triennale, sto per laurearmi nella magistrale e io non ho ancora la cittadinanza. Io mi sento italiana, devo essere sincera, io mi sento italiana perché tra l'altro non vado in Ecuador da purtroppo tanti anni e a me pare ingiusto, mi pare ingiusto perché non solo perché io vorrei avere il passaporto italiano, che non è quello il punto è che ci sono delle problematiche per accedere ad alcuni concorsi, ci sono delle problematiche quando devi viaggiare, ci sono delle problematiche riguardo proprio il vivere in Italia non avendo la cittadinanza. Io non ho la cittadinanza, ma l'ho richiesta nel 2017, ancora non ho ricevuto nulla, perché nonostante ti dicano che con Salvini sono aumentati i tempi, poi quando è andata via Salvini li hanno ridotti di nuovo. è un massimo di 48 mesi, che poi possono essere fino a 3 anni, eccetera, eccetera. Poi c'è di mezzo il Covid. Esatto, poi adesso poi traverso. la sanatoria, tutte le persone che lavoravano appunto in questi uffici si sono trasferite per la storia della sanatoria, le persone da sanare, quindi io la mezza di danza non l'ho vista. La mezza di danza che ha un costo, per me aver rinnovato il permesso di soggiorno per un tot di anni ha avuto un costo per me, per i miei genitori. L'abbiamo ricevuto non tramite sanatoria perché non eravamo da sanare, ma tramite me, perché a quei tempi si poteva avere il permesso di soggiorno per motivi familiari, perché hanno capito a un certo punto che non solo era un problema per un bambino non aver permesso di soggiorno, perché banalmente per le mense e per altre questioni, ma perché dovevano anche lucrare, perché a un certo punto le scuole elementari non capivano come far pagare a queste persone qua. Non sapevano come farle pagare hanno iniziato a capire che c'erano un po' di problemi. Tra l'altro, a me la cosa che più infastidiva era, per esempio, quando io dovevo andare dal medico. Perché se tu arrivi in Italia, sei un minore, non hai un medico di base, non hai un pediatra. Quindi io una volta ho avuto 40 di febbre e mi hanno dovuto portare all'ospedale perché ce l'avevo da una settimana e non avevo un medico. Sono tutte queste cose che noi viviamo e c'è ancora gente che vive. Abbiamo vissuto l'essere venuti qui, essere venuti senza documenti, aver faticato per ricevere questi documenti, e riguardo alla cosa di prima, portarci dietro il peso di essere stranieri, di dover qualcosa all'Italia. Questa è una cosa che non passerà mai, non mi passerà mai, ed è una cosa su cui io lotto personalmente, del dovere dimostrare che io mi sono meritata questa cosa. Mi sono meritata di essere venuta in Italia, devo essere una brava cittadina, perché ovviamente mi hanno ospitato, quindi ti devi comportare bene, perché sappiamo benissimo che alla fine noi a Salvini e alla Meloni stiamo simpatici, ma se ci comportiamo bene siamo bianchi e anche cattolici. Quindi io nel frattempo sono diventata atea, per che comunque per, male non fa, no, mai. E ho deciso invece che avrei lottato per altri motivi, e che comunque io mi reputo una brava cittadina ma non era quello il mio scopo in questo paese. E insomma, questa è un po' la mia piccola storia. Guarda che facciamo il cartellino, Stefani e collettivo. Guarda che la assumiamo. Vai. Ma io avrei mille cose altre da dire in questi 18 anni che sono in Italia, non ho viste di cotte di crude. Infatti ci tenevo a dire, poi con questo concludo, che comunque io mi sento una persona privilegiata, perché comunque il razzismo vero l'ho visto addosso ad altre persone, perché io comunque non mi vedete, ma sono bianca, molto bianca, quindi molte volte vengo confusa. Io dopo 2 anni ho scoperto che qua d'origine. Esatto. Ero convinta che lei fosse milanese, anche perché ha un accento migliore del mio, sicuramente. Esatto. Mi sembra la puntata sbagliata per parlare di accenti, però sì, effettivamente non sei di Milano, si notava. Esatto, e quindi io comunque sono bianca, e quindi mi porto addosso questa cosa del va bene. Non sono così fastidiosa in questo paese, perché sono latinoamericana. Gli latinoamericani non danno così, danno fastidio ma non troppo, sono molto bianchi, sono occidentali, quindi io nell'essere straniera sono una straniera privilegiata, e quindi questo ci tenevo a un po' a dirlo. E basta, parleremo altre volte. Io su questa cosa... Lei si è prenotata, io basta, no. Basta, le facciamo la chiave della radio stasera, lei quando vuole entra, fa 45 minuti di odio contro i razzisti, sì, a posto, odio. A posto, bene così, perfetto. Le paghiamo anche il panino. Per me, puoi prendere le chiavi. Esatto. No, una piccola riflessione veramente stupida. Vabbè, essenzialmente c'è, cioè, talvolta le nazioni, gli stati dovrebbero fare dei discorsi lungimiranti, no? Dicendo dobbiamo fare in modo che la nostra popolazione cresca, di accogliere, tra virgolette, però insomma accettare le risorse migliori che ci sono nel mondo, lottare per la nostra sopravvivenza, perché tra gli stati non è che un po' più tutti amici, no? Cioè ci facciamo la guerra, non ci facciamo la guerra, ma non è che la Francia sta simpatica all'Italia così. Certo. Finché va bene, poi cercano di... Cioè, la cosa che è agghiacciante, questa cosa l'avevo studiata grazie a un esame di demografia all'università, cioè la popolazione italiana sta invecchiando, l'unica popolazione giovane sono i migranti, le persone migranti, le uniche persone che figliano in Italia sono le persone migranti, le persone che studiano di più sono le persone migranti, le persone che aprono partita IVA sono migranti e tornano lì dalla cittadinanza, e quindi le persone migranti se ne vanno dall'Italia. Cioè, non è soltanto una questione di razzismo, è una questione... sembrerebbe di interesse nazionale. Cioè, cazzo, dovreste farcela capire che se una persona ha fatto tutto il suo arco di studio all'interno di un paese, forse è il caso che tu premi quella persona perché ha studiato e potrebbe dare valore al tuo paese in futuro. No, perché è troppo difficile portare in Parlamento una proposta di legge che parla del fatto che se nasci in Italia sei italiano, cose che su cui gli Stati Uniti d'America, che sono un paese di merda, ha fondato la propria grandezza. Siamo tutti americani, basta che fai quello che vogliamo noi. Vabbè, basta, fine, chiusa qua la piccola cosa politica. No, io vorrei solo dare in realtà ora la parola a Dina, perché Dina ha una storia uguale ma diversa da Stefani. Stefani diceva: io sono bianca, sono ho la fisionomica da bianca, non ho la cittadinanza e ho avuto tutti questi problemi e questo odio che ora ho sfogato al microfono. Invece Dina l'altro giorno mi ha raccontato, Dina egiziana, invece Dina ha la cittadinanza, vero Dina? Non sì, sì, io sono nata qua in Italia e ho ottenuto la cittadinanza a 4 anni, perché fortunatamente papà era qui dall'82, quindi sempre con molta fatica è riuscito ad ottenerla, quindi per me è stato un attimo più semplice, almeno per quanto riguarda la cittadinanza. Per invece... quanto riguarda... Aspetta, c'è qualche problema, boh. È successo? Chiediamo scusa, problemi di connessione probabilmente. Prego. No, invece mi raccontavi di tutti gli altri problemi che invece che ha avuto solo perché sei molto bella, tra l'altro, molto riccia e è molto egiziana. Allora, sì, nonostante ora non si veda, io sono abbastanza scura di... Io sono bellissima, pensavo. Ciao, Dina. Solo che la telecamera non funziona oggi a quanto pare, e diciamo che questo mi ha causato dei problemi ma fin dai tempi delle elementari, anche perché i bambini ovviamente educati da dei genitori abbastanza ignoranti spesso venivano a dirmi quasi per gioco, quasi anche senza cattiveria, che il colore della mia pelle era paragonabile a quella degli escrementi, utilizzando però altri termini che ora, dato che siamo in radio, non penso di utilizzare. E quindi diciamo che una bambina di 7 anni che si sente dire queste cose la patisce abbastanza, a tal punto che sono arrivata in un periodo in cui non volevo assolutamente andare a scuola, nonostante amassi lo studio, nonostante amassi le maestre, per questo fatto, e tornavo a casa a incolpare mia mamma. Mio padre, i miei genitori sono entrambi egiziani, solo che mio padre è scuro e mia madre è chiara. Quindi andavo da mia madre a chiederle: perché non mi hai fatto bianca come te? Voglio fare qualcosa per diventare bianca, se no io non vado più a scuola. E quindi in realtà questo mio essere scura quando ero piccola è stato veramente un problema. Poi per fortuna crescendo ti rendi conto che l'essere straniera ti può dare un valore aggiunto in realtà. Non solo il colore di pelle che ad ora, soprattutto tra i ragazzi, piace molto, ma anche il fatto di sapere due lingue, far parte alla fine di due culture allo stesso tempo. Però crescendo c'è anche sempre il problema del fatto che hai problemi nel mondo lavorativo, hai problemi a cercare casa. Ad esempio 2 anni fa, quasi 3, mi sono trasferita a Milano per cercare un appartamento a Milano. Per me è stato un delirio, non tanto per la concorrenza tra gli studenti, perché lì siamo tutti sulla stessa barca, ma mi è capitato 2 o 3 volte di sentirmi dire: non mi dispiace, non accettiamo stranieri in casa. Io ovviamente ogni volta perplessa. Quanta civiltà, dicono... quanta civiltà. La civiltà di Milano. La locomotiva d'Italia. Comunque è una città caratterizzata da persone provenienti da tutto il mondo, quindi non stiamo neanche parlando di una città europea, come Amsterdam praticamente, no? Come Berlino. Esatto, sì. Figa, sì, si vede proprio. Esatto. E ovviamente stesso discorso è successo ai miei genitori. Diciamo che con il fatto che mia madre sia bianca, spesso non viene scambiata per araba, quindi la scambiano per francese, spagnola, e magari la gente passa il tempo a discriminare gli arabi. Noi siamo anche di famiglia musulmana, quindi musulmani davanti a lei, lei ascolta tutto il discorso per poi dire: guarda, guardate che io sono araba e musulmana e ora cerco di farvi capire il mio punto di vista. Pensavo, e ora mi corco di mazzate, li spaccava di botte. L'intento era quello in realtà, però diciamo che è una persona civile, quindi preferisce spiegare in maniera diretta quali sono anche i pregiudizi, anche perché la domanda che spesso mi viene fatta è: uno, perché non porti il velo? Ma lì alcuni per curiosità, quindi io in qualche modo glielo spiego, e altri più per un pregiudizio. Se no, la seconda domanda che mi viene fatta, che è quella che ormai è diventata uno slogan, è: ma è vero che tuo padre ti picchia? così a random. Sì, questo è proprio il top. Madonna. E io ogni volta a spiegare che no, mio padre non mi picchia, non è perché è arabo, quindi mi deve picchiare, quindi ci sono tutta una serie di pregiudizi a riguardo dei pensieri che in qualche modo io cerco di scardinare. Ma non è così semplice, mettiamola così. Poi il mondo lavorativo, per fare i curriculum, ho sempre l'ansia non tanto di non essere presa lavoro per una questione di competenze, perché a quel punto ovviamente c'è concorrenza, lo accetto, per il fatto che il mio cognome straniero in qualche modo mi possa creare dei problemi. Certo. Chiedo scusa, ma perché ogni tanto spero sempre che ci sia un velo di speranza nella vita, nel mondo. Ma cioè, i tuoi coetanei, i tuoi amici, le persone con cui eri in classe, esclusi i simpatici bambini alle elementari, cioè tu hai trovato in italiani e italiane, bianchi o anche altre persone straniere, cioè della solidarietà, delle persone che andavano oltre o no? Nel frattempo Michela sta facendo scaricare il telefono. Ah sì, funziona la presa, attacca, attacca. Scusa Dina, prego, ogni tanto ci distraiamo con queste cose molto importanti, tipo... Non vi vediamo più. No, abbiamo dovuto spegnere perché Michele non ha pagato la bolletta del telefono e quindi non c'è più connessione. Se attacchiamo la connessione non va la telefonata. Prego. No, per fortuna, crescendo, ho trovato molta solidarietà, soprattutto se per qualche motivo venivo insultata dalle persone, anche se io ho avuto comunque, tra virgolette, crescendo, la fortuna che non portando il velo, e sì, sembrando araba, ma non troppo, perché alcuni magari mi prendono per brasiliana, cubana, quindi in qualche modo danno meno fastidio i sudamericani, mi è andata anche un po' bene, però crescendo sì, molte persone che si mettevano comunque al mio fianco nel caso in cui venissi insultata e li riempivano di mazzate, mettiamola così. Olè, educative, tutte educative. Vabbè, in alcuni casi... anche più che educative, via, quasi imperative, ecco. Esatto. Bene, grazie Nina. Figuratevi. Ma tu, scusa, le solite domande di rito, perché io sono quello che fa salotto, no? Sono quello tipo l'usciere, quello che è incaricato di intrattenere la gente. Ma tu adesso di cosa ti occupi, cosa hai studiato, cosa fai nella vita? Allora, io ho una laurea in lingue orientali e una in servizio sociale, mi sono laureata 2 settimane fa e ho trovato lavoro in una scuola superiore. Olè! Dottoressa! Oh, e adesso nella posizione di potere, Dina, cosa farà ai suoi studenti? No, in realtà li tratto bene, loro mi amano, quindi sono veramente contenta. Che storia. Dicono che sono la prof brava, ma che non deve arrabbiarsi, perché sennò causa timore nella gente. Poche fiamme, ma quindi insegni lingue, penso. No, per ora sostegno, per un fatto che mi manca ancora l'esperienza e tutto il resto. Poi punterò una cattedra d'inglese, vediamo. Ah, inglese. Io sono solo triste perché sei a Torino e hai lasciato Milano, visto che ti aveva trattato così bene. Hai ragione, appena aprono le regioni vengo, poi brava. Qualcuno mi ospita, vi avviso, però... Certo. Tutti a casa di Michela. Ah, sì. Tanto. Qual è il problema? Comunque, cioè, sì, effettivamente, prima Ammar è venuto per la Juventus, Dina sta Torino, raga, ma cioè, nel senso, come si fa? Vabbè, io sono nata qua. Infatti, l'unica c'è soddisfazione per ora è Stefani, che sta a Gratosoglio, è il quartiere di fianco al nostro, grande. E che tifo Milan, però. Brava, tifo Milan, madonna, ragazzi, mondo unito dal calcio. Poi tanto, Juve del cuore. No, anche tu Juventina? E vabbè, sono nata a Torino. Ma raga, ma di cosa stiamo parlando? Ma vera... Sono l'unica interista, mi sa. No, cioè, interisti in buona compagnia. Madonna, che schifo, madonna. Il calcio unisce. No, ma cosa è calcio unisce? Ma ragazzi, ma cioè, siamo a Milano, Milan, l'unica squadra, Milano, giusto Stefani? Giusto, ecco. Tanto la felpa rossa non era la tuta del Milan, forse, me ne rendo conto solo adesso. No, non è la tuta del Milan, però i colori sono quelli. Ok, va bene, basta, minchiate a caso, chiedo scusa, io sono quello che fa casino di solito. Scusi, prof, mettiamo, ho capito che Dina... mini canzone. Dai, mettiamo una canzone, hai ragione. E poi sentiamo Cristina, va? Va bene, senti, io alla fine mi sono buttato su Fela Kuti, che tanto piace sempre in qualsiasi cosa, mettiamo questa. Perfetto, mi dicevano prima di fare col ditino così, e poi così. A tra pochissimo! Yeah. Va bene, qui si dedica a erogazione agli scioperi, c'è stato anche un breve momento di violenza, Dina ci ha caricato con le sue ammazzate educative, ti prego continua a picchiare gli studenti e le studentesse finché non diventeranno delle brave persone. Detto questo, no, no, ci mancherebbe altro, non metto le mani addosso a nessuno. Ma come no? Scusa. Vabbè. Guarda che sui fascisti non è reato, eh? Sui fascisti si dice vero, sempre. No, su quello sono d'accordo, ma non penso che i miei studenti siano fascisti, grazie al cielo. Non lo so, abbiamo una studentessa collegata, potrebbe dirci qualcosa anche lei? Ma come sì. Si nasconde, prof? Ma come si nasconde? Tipo, se non la guardo non mi interroga, se non la guardo non mi interroga. Vai Bettina, dici qualcosa. Allora, che devo dire? Ancora io... Devo dire che, non so, forse sono io che sono fuori dal mondo, ma per ora cose, cioè episodi evidenti di razzismo non li ho mai visti nella mia vita, perlomeno scolastica, poi all'esterno purtroppo sì. Però devo dire che sono sempre stata fortunata. Nella mia classe in particolare non c'è mai stato niente di grave, però purtroppo invece diciamo nella scuola in generale noto dei comportamenti, degli atteggiamenti che magari non sono direttamente razzisti, mirati per offendere oppure così, ma sono proprio secondo me perlomeno il risultato di un'ignoranza di base, no? Possiamo dire precedente, che appunto sì, ci sono quelle certe battute oppure cose dette proprio in leggerezza totale senza appunto lo scopo di offendere nessuno, che però invece se analizzate secondo me diventano degli atteggiamenti che possono essere proprio pesanti, cioè io non, ovviamente non posso saperlo, però posso immaginare che vissute da un altro punto di vista siano quelle cose che sommate poi vadano a diventare pesanti. Ma io mi permetto di fare una domanda diretta a Bettina, in quanto appunto studentessa coinvolta perché fa parte della rete Studentu Milano, e ricordiamoci che è importante la finale della parola. Come mai, come mai è già sbagliato, all'interno della rete Studentu, in questo momento, ci sono seconde generazioni, persone che arrivano da altri paesi, studenti, studentesse, straniere, colori di pelle differenti, cioè voi come state vivendo la possibilità di organizzarvi, fare politica, gestire gli spazi, le scuole, le occupazioni, i collettivi, con persone che non sono nate in Italia, da genitori italiani? Ma allora, devo dire che io sono nella rete student da poco tempo, perché appunto sono in prima, e dato che la rete è un'associazione, sì, un coordinamento di collettivi che prende studenti e studentesse medi, ossia del liceo, io sono entrata da molto poco, quindi ancora non conosco bene tutti, non so. Allora, di seconda generazione non credo che ci sia nessuno all'interno della rete, però poi invece con parenti magari con origini non italiane può essere che ci siano, però appunto io non conosco bene le origini dei miei compagni e delle mie compagne, ma devo dire che ovviamente io mi trovo benissimo come ambiente, in quanto è appunto un ambiente molto libero dove diciamo non ci sono tracce e non c'è spazio soprattutto per il razzismo, e devo dire che è una cosa fantastica in cui io mi trovo molto bene. Yeah. Grazie Betty. Ora un po' per chiudere questa bellissima puntata scoppiettante. Devi sempre parlare nel microfono, Michela, perché cioè se no non si sente. Ma sembra che me lo devo mangiare il microfono così. Così va. Non ce la posso. Poi quando fare. Diventiamo ricchi prendiamo i microfoni quelli secondo fighi. Secondo me si la prossima volta ti porto solo Stefani, basta, cioè io non posso. Ma no, perché? Dai, magari la prossima volta mi taccio io che è meglio. No. Lasciamo la parola a Cristina. Vai Cristina. vuoi così tirare, senza responsabilità, vuoi tirare per chiudere. Sì, chiudiamo. No, direi che mi tolgo subito da questa responsabilità, per cui la chiusura la lascerò a voi. Però un atteggiamento un po' paraculo, se si può dire, ecco, il mio. Vogliamo bene così. Grazie. In realtà mi erano venute in mente due cose, ma adesso che ha parlato Bettina volevo partire da un'altra. Allora, io non ho nessuna titolarità per parlare di questi temi, quindi lo sto facendo in maniera del tutto personale, come attivista del Todo Cambia e come persona che negli anni si è accorta di quello che le succedeva attorno, che in parte ha anche un po' lavorato su questioni che più che di razzismo palese, si è occupata di pratiche razziste che sono più subdole in molti casi. E infatti la domanda su se ci fossero studenti di seconda generazione o comunque persone che hanno un background migratorio, che forse amplia un pochino l'etichetta di seconda generazione, che è comunque molto stretta. Scusa, sono un po' ignorante. Hai ragionissimo, no, a fare un discorso più sensato. Non ti stavo bacchettando, se ti conoscessi bene, forse l'avrei fatto, ma non ti conosco, quindi non ti stavo bacchettando. È un suggerimento per questa volta. Sguardo. Ok. No, che la domanda che hai fatto in realtà è stra interessante, perché quello che capita, di cui probabilmente molti di noi e molte di noi sono assolutamente all'oscuro, e che in Italia, nonostante non ci siano delle canalizzazioni formative, per cui nei fatti noi dopo le scuole medie possiamo scegliere che scuola fare in maniera abbastanza libera, diciamo, mettiamola così, non è come la Germania, ma nei fatti quello che accade in questo momento in Italia negli ultimi 10-15 anni è che c'è una effettiva segregazione in alcuni percorsi, per cui gli studenti con background migratorio sono sovrarappresentati nelle scuole, negli istituti tecnici, professionali e nelle formazioni professionali. Questo di per sé non è né male né bene, se non fosse che sappiamo pure che le persone che finiscono all'università, come anche molte reti di attivismo studentesco, sono presenti prevalentemente nei licei, per il semplice fatto, che è la cosa più banale del mondo, che nei licei si cura la lingua. Cioè, chi fa un corso di formazione professionale a un certo punto smette di studiare l'italiano, che è comunque la lingua con cui poi si può esprimere, può parlare di sé, può rivendicare i propri diritti. Quindi in molti casi la sottorappresentazione in queste realtà, che è così, e per esempio si può notare anche quando guardiamo i rappresentanti dei genitori, per farvi un esempio che non sta neanche a livello studentesco, è dovuta al fatto che probabilmente in molti, spero sempre meno, ma purtroppo la tendenza non è alla diminuzione ma all'accentuazione di questa differenza, nelle scuole dove poi magari si dedica tempo alla parola e a mettersi a cerchio, non ci sono quegli studenti e quelle studentesse, sono da altre parti, e spesso i due mondi non dialogano in nessun modo, e succede la stessa cosa che succedeva quando gli siciliani, i pugliesi e i calabresi finivano dopo la licenza media, e magari neanche dopo la licenza media, quindi poi non c'erano dottori al nord, siciliani, pugliesi e calabresi, ed è esattamente la stessa cosa che sta accadendo. In questo caso, secondo me, le storie di Dina e Stefani ci portano un pezzettino in più, che esistono anche persone che hanno un background migratorio, che sono arrivate alla fine dell'università. Ripeto, non sto in nessun modo dicendo che è necessario finire gli studi, però avere le stesse opportunità di accesso all'università sarebbe auspicabile per tutti e per tutte, a prescindere dalle proprie origini. E forse questa cosa qui mi era proprio passata di mente, mi è venuta in mente grazie anche alla tua domanda, Gulli, quindi ti ringrazio anche per la risposta di Bettina, e anche perché io mi sono un po' più occupata di scuola. Poi, se devo fare un riferimento a quello che facciamo, sicuramente non c'è uno scenario felice, sarebbe molto bello parlare di speranza, o comunque di speranza di riuscire nella lotta, comunque anche nel riconoscimento di una serie di diritti. Forse sono anche la persona peggiore per parlare di speranza, però sicuramente ci sono delle pratiche che si possono continuare a mettere in atto e che in qualche modo hanno degli effetti positivi o possono averceli. Quindi, per esempio, mi veniva in mente che in tutto il discorso, che dall'inizio, da quando ha parlato Andrea fino all'ultimo intervento, non abbiamo mai esplicitato che tanto di questo si gioca nel saper esprimersi. Io ritorno sulla questione linguistica, che non è secondaria, come non è secondario quando diciamo studento, per lo stesso motivo per cui diciamo studento. La lingua è fondamentale perché ci consente di rendere reali alcune cose, è un fatto sociale, si dice, insomma. Quindi oggi abbiamo avuto Dina, Stefani e Ammar che, per varie ragioni, sono in grado di esprimersi in italiano senza essere presi in giro, senza rendersi incomprensibili rendendosi anzi estremamente comprensibili per raccontarci storie anche delicate che hanno deciso di condividere con noi, secondo me, cioè, questo comunque è un ringraziamento. Ma non è così scontato, nel senso che una persona che fa una migrazione, banalmente, ripeto la questione territoriale italiana, perché secondo me noi ce la dimentichiamo molto spesso, la lingua italiana non è parlata allo stesso modo in tutte le regioni, quindi se io mi sposto e parlo un italiano regionale, che però mi consente di farmi capire, chi arriva dall'Egitto, dall'Ecuador, dal Ghana, dalla Costa d'Avorio, in molti casi non è in grado di parlare italiano, a meno che per vari motivi non è intercettato nella sua carriera qualcosa. E quello che succede in Italia è che non ha effettivamente, non gli viene riconosciuto il diritto ad apprendere l'italiano, nonostante poi gli venga preteso. Con il famoso esame. Per esempio, non soltanto per la cittadinanza, ma anche per avere il permesso che si chiama per lungo soggiornanti. Sì. Devi avere un B2 in italiano, che nessuno però si prepara a farlo. Esatto. Quindi, esatto, io fallirei, dato che sbaglio ancora le desinenze dei verbi. Sì, sicuramente, esatto, come a me che sono nata qui, non mi viene chiesto un test di italiano e non devo pagare un tot di euro per avere i miei documenti. No, ma poi tra l'altro, Cri, ti ricordi come sono bastardi? Praticamente fanno ascoltare delle conversazioni dove neanche io capisco, cioè io faccio già difficoltà normalmente, però neanche io capisco tantissimo, sì, dove mettono tutte le doppie negazioni. Tipo, sono strutturati come quelli d'inglese che noi facevamo alle scuole superiori, però passarli o non passarli per noi non significava non avere un documento che ti permette di lavorare in Italia e di essere trattato come un cittadino comunitario, il permesso per lungo soggiornanti. Quindi viene richiesto, puoi essere anche raggirato, puoi essere truffato, puoi essere preso in giro perché non parli italiano, ma lo Stato italiano non ti dà degli strumenti e delle risorse, tant'è che l'insegnamento dell'italiano avviene negli enti, nelle associazioni di volontariato, nei centri sociali, in tutto ciò che è società civile. Quindi praticamente il sostegno alla cosa più importante che ci sia, cioè esprimersi, farsi capire, ma soprattutto parlare di sé, non è considerato. Secondo me questa è una chiave. E nel fare italiano, forse l'altra cosa che aggiungerei, e poi mi taccio, è che quando noi, il Todocambio è una scuola di italiano, che fa parte di una rete delle scuole di italiano senza permesso, mm-hmm, che sono scuole che hanno come, diciamo, principio fondante, poi sono diversissime tra di loro, quelle di consentire l'apprendimento dell'italiano facendo dei corsi di italiano a persone a prescindere dai loro documenti, perché il CPIA, che tra l'altro è un centro per l'istruzione degli adulti, quindi in teoria nascerebbe come centro per l'istruzione degli adulti, diventato comunque luogo fulcro per imparare l'italiano, le due sostanzialmente, ti prende un'iscrizione se tu hai dei documenti, ma la quantità di persone che sono senza documenti e senza un regolare titolo di soggiorno in Italia è molto elevata. Adesso le stime neanche me ne ricordo, ma comunque sono stime, perché non li puoi contare se non hanno i documenti. E quindi tu vai in una scuola dove non ti chiedono niente, come quella del Todocambio. La difficoltà sta per chi sta dal lato, diciamo, dell'insegnante. Spesso siamo persone che di lavoro facciamo altro, e la difficoltà sta nello sfuggire a quella paradigma un po' paternalista e anche di riproduzione colonialista, sostanzialmente, di sei arrivato qui, ti insegno l'italiano che dico io, quindi quello per comprare le cose al supermercato se sei una donna, quello per capire gli strumenti dell'imbianchino se sei un egiziano, e ti aiuto. E invece la sfida, che poi è veramente una sfida perché non è semplice metterle in atto, è un po' sfilarsi da questo meccanismo, cioè creare dei luoghi che siano di socialità prima di tutto, cioè di creazione di reti, per cui tu, io conosco Amar conosce me, diventiamo amici, impara l'italiano, ma nel frattempo incontrerà una marea di ostacoli dati dal fatto che non è italiano e dovrà contare su di me come sulla rete che gli si crea attorno, e io e Amar stiamo sullo stesso livello, semplicemente io ho molte più risorse perché sono cittadina di questo luogo, ho una casa, ho un lavoro, non ho paura di essere buttata via dal mio paese e finire a fare il servizio militare e così via. Però l'idea è quella che dovremmo essere nodi della stessa rete, sostanzialmente, almeno quella è la sfida. No, basta, ho parlato grazie troppo. Grazie, sei sempre illuminante per me, ogni volta che ti seguo. No, infatti ne hai parlato anche per me, è stato veramente illuminante, mi ha fatto pensare a quel, c'è a un certo punto forse un articolo della Costituzione che dice che la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che non possono permettere. L'articolo 3. La reale uguaglianza, beh, si vede, no? Sì. Quanto permette veramente, che rimuove, dagli strumenti, ecco, forse parla anche di dare gli strumenti per fare in modo che siamo tutti quanti uguali, l'uguaglianza. Ma quello, se sei cittadino italiano, chiaro, tu devi fare sempre il passo Scemo io, scusa, errore mio, scusami. Va bene, ma quindi oltre a fare parte di, cioè, di una scuola di italiano, credo che in realtà io potrei essere benissimo studente, perché appunto, ripeto, c'è una persona alle mie spalle che conferma benissimo quante volte ho scritto delle mail sgrammaticate proprio bruttissime. Tu cosa fai nella vita, Cristina? Io sono una ricercatrice sociale, lavoro a Codici, che è una cooperativa che fa ricerca sociale. Ma che storia! Ma forse abbiamo presentato qualcosa di Codici, no? Sono io che mi dimentico male? Avete fatto il lavoro, sì, una parte. Ah, ecco, del, sì, ecco. Esatto. Però prego, non prego. Con me. Sì. Non con te, però vai, se vuoi raccontarlo. Non conosco, raccontalo. Quindi se ne volete parlare voi, io purtroppo non so dirvi bene. No, vabbè, insomma, dei nostri compagni e delle nostre compagne avevano partecipato perché era un'inchiesta di Codici su come i giovani vivono la propria zona, il proprio quartiere. Se percepiscono di avere il potere di cambiarlo, eccetera, eccetera. Sì, sì, perché facciamo molta ricerca partecipata, quindi per questo c'era un piccolo team. Siamo dei soggettoni, sì. Che storia, ma quindi cioè, tu sei una persona che ce l'ha fatta, cioè fai ricerca davvero, e quindi... Questa mi sembra la guffata del secolo, detta da un milanista, poi in questo momento mi sembra proprio... Ma l'interista, è vero! Vedi che però allora le barriere razziali possiamo superarle, ma c'è altre cose, no, per niente. Ma poi scusami un secondo, ma tu non sei mica... No, non te... No, lei mica. È siciliana. Cristina, tu sei siciliana e adesso sei a... Io in questo momento sono a Modica, perché tanto sto lavorando a distanza in Sicilia, però vivo a Milano di solito. Ah, ok, mi sembra, ma come fa una di Modica? Perché dovrebbe una di Modica ti fare Inter? Vabbè. Non so. Quella è una domanda che tratteremo in un'altra puntata, probabilmente. Esatto. Faremo apposta, l'antirazzismo è passato dal pallone, quindi metteremo insieme tifosi e tifose di tutto il mondo. Va bene, io a questo punto vi ringrazio moltissimo. Noi in realtà, cioè, non vedo alle nostre spalle nessuno che deve iniziare a fare un programma, perché pensavo ci fosse qualcuno. Per cui se qualcuno vuole prendere anche qualche altra parola, Michela, facci un quarto d'ora di intervento su qualcosa a caso. No, vabbè. Ma direi anche di no, basta. No, esatto, basta. Va bene, quindi vi ringraziamo. Io a questo punto però vorrei veramente quasi minacciarvi, Dina, se ancora che ci sente, Bettina e anche Cristina, cioè... Di nuovo, la radio è aperta, Michela avrà le chiavi domani mattina, cioè potete fare quello che volete. Sì, allora, io nella vita cicliante faccio la bidella con Cristina, perciò le chiavi vanno... Infatti non abbiamo detto questo. Ma si potrebbe fare tipo un progetto come quello che fu fatto dalla TV italiana negli anni 50, in cui c'era il maestro che insegnava a scrivere? Si potrebbe fare tipo... Non è mai troppo tardi. Radio scuola, esatto, radio scuola di italiano. C'è Dina che parla arabo. Facciamolo subito. Dai, Michela, ci siamo. Bloccalo. Me sulle mani. E voi non conoscete il Gulli, mi ha alto 1,90. No, non c'entra quello, è che in realtà io sono troppo impegnato anche per fermarmi. Per cui in realtà, purtroppo, se Michela vuole fare questa cosa, dovrebbe essere geniale. Cioè, vi mettete d'accordo, non so, una specie di trasmissione in cui c'è una parte in arabo, in cui spiega la grammatica italiana, una parte di parlato italiano. Possiamo pensarci, aiutatemi. Possiamo pensarci, dai, cioè, sì. Va bene. Io sto cercando di accollare qualsiasi cosa a Michela, non so se sarà capito. Va bene, allora vi ringraziamo tantissimissimissimo, siete stati molto gentili. Grazie a voi, grazie per la discussione. Ciao. Va bene, buona serata. Allora, direi che potremmo dire che abbiamo concluso questa quinta puntata di Attualizzare l'antifascismo. Michela, un commento? Questa è la mia prima volta in radio, spero l'ultima. No. Io volevo continuare in realtà. Ah, ma visto? Basta, abbiamo vinto Dina. Grande. Così ci piace. Allora, ho portato tanta gente in radio, sono felice perché solitamente io sono quella che porta gente e crea reti, perciò questa roba mi rende molto felice e la prossima volta io voglio tutti quanti qui. Sì, ce la facciamo. Dai. Ok. Va bene, ok, Forza Milan. Scusate, Forza Juve. La schetta in gola. Va bene. Forza Inter. Madonna santa, ma cosa mi tocca sentire? Va bene, carissimi, io metto questa canzone che non so di chi sia né cosa sia. E no, questa non mi piace, dai. Questa no, facciamo quest'altra. Va bene. Ciao, buona serata a tutti e tutte. Ciao. Anche a voi. Ciao. Anche per me.